Prima di iniziare queste riflessioni pongo una domanda. Per il mondo circolano innumerevoli slogan. Il loro numero non si può certamente contare. Per esempio, in Francia si dice «c'est la vie», mentre in America «ci» è lo slogan «mai dire mai». In Italia, tra i tanti slogan detti per televisione, in occasione della pubblicità, «ci» è quello del caffè, il quale, più lo mandi giù, più ti tira su. Impossibile dunque contarli. Ma vi è uno slogan che ha una diffusione di gran lunga superiore agli altri. Quale può essere la frase più citata in tutto il mondo? La risposta è certamente ardua. Eppure, una volta individuata è la più ovvia. Essa è stampata su ogni banconota americana in God We Trust, cioè noi confidiamo in Dio. A titolo informativo, questo motto fu scritto per la prima volta nel 1864 su una moneta degli Stati Uniti, che avrebbe progressivamente sostituito E pluribus unum, espressione latina per da molti. Uno, riferito ai 13 stati che avevano inizialmente formato gli USA. Con ogni probabilità questo motto fu tratto da una strofa dell'inno nazionale americano scritto nel 1814 da Francis Scott Key, e approdando sul conio del dollaro statunitense ricevette riconoscimento ufficiale dalla legislazione confederata nel 1956, in netta contrapposizione all'ateismo promulgato dall'Unione Sovietica negli anni della Guerra Fredda e in testimonianza della fiducia in Dio di un intero popolo. Eppure, nonostante tale affermazione sia la più citata, molto probabilmente anche la meno realizzata, perché confidare in Dio è e sarà sempre. È vero che questo Dio è diverso a seconda delle diverse culture, ma ciò non fa che dimostrare che l'uomo confida in un supremo. È ovvio, pertanto, che anche i timorati religiosi ebrei confidassero in Dio. Leggiamo una preghiera di Davide quando i filistei lo presero in Gat. «Abbi pietà di me, o Dio, perché gli uomini vorrebbero divorarmi, mi combattono continuamente coi loro attacchi. I miei nemici vorrebbero continuamente divorarmi, sì, sono molti coloro che mi combattono nel loro orgoglio. Quando avrò paura confiderò in te, con l'aiuto di Dio celebrerò la sua parola, ho posto la mia fiducia in Dio, non temerò. Che cosa mi può fare l'uomo? Essi distorcono continuamente le mie parole. Tutti i loro pensieri sono volti a farmi del male. Si riuniscono insieme, stanno in agguato, spiano i miei passi, aspettando di prendere la mia vita. Essi pensano di sfuggire mediante la malvagità. Nella tua ira, o Dio, atterra i popoli. Tu hai contato i passi del mio vagare. Riponi le mie lacrime nel tuo otre. Non le hai registrate nel tuo libro? Nel giorno che griderò a te? I miei nemici volteranno le spalle. Questo lo so, perché Dio è per me. Con l'aiuto di Dio celebrerò la sua parola. Con l'aiuto dell'Eterno celebrerò la sua parola. Ho posto la mia fiducia in Dio, non temerò. Che cosa mi può fare l'uomo? I voti fatti a te, o Dio, mi vincolano. Ti renderò lode, perché tu hai liberato l'anima mia dalla morte e hai preservato i miei piedi da caduta, affinché cammini davanti a Dio, nella luce dei viventi. Davide afferma che, anche se i suoi nemici aspettano il momento opportuno per ucciderlo, egli ha piena fiducia nell'Eterno, il suo Dio. Il re Davide rispecchia una situazione nella quale il credente, prima o poi, viene a trovarsi. Arriva per tutti il momento in cui si sperimenta un periodo di buio, dove non si riesce a scorgere un barlume di luce. E il periodo nel quale le lacrime vengono raccolte da Dio, versetto 8, dove le nostre speranze sono sepolte nella tomba dei ricordi, quando per il nostro cuore non vi sono più speranze né sogni. Davide ha fatto ciò che ogni altro credente fa o dice di fare. Ha confidato in Dio, sì. Tutti confidiamo in Dio, o almeno diciamo di confidare in Dio. Perché allora vi sono credenti che non godono il frutto dello Spirito, non vivono la pienezza di gioia che Dio ha promesso a tutti? I credenti sono depressi, scoraggiati, demoralizzati, sconfortati, si lamentano continuamente. Sono questi i risultati della fiducia in Dio? La depressione può essere una parentesi, ma non una situazione quotidiana di chi confida in Dio. Cosa ci e che non va. Cosa ci è di sbagliato nel confidare in Dio? Messo per scontato che non ci è nulla di male confidare in Dio. La risposta dobbiamo trovarla nel modo in cui si confida in Dio. Sì. Perché ci è una fiducia in Dio che è sbagliata. Il volere di Dio è che noi dipendiamo da Lui in tutto, che le nostre richieste siano rese note a Dio, ma ci è una dipendenza da Dio, che ha le sue radici nell'immaturità. A volte non vogliamo fare uso delle risorse che Dio ci ha fornito, evitiamo le responsabilità delle scelte da fare nella vita, cercando di gettare su Dio anche il peso dei minimi dilemmi. Dio vuole che usiamo l'intelletto, che esercitiamo le facoltà naturali per diventare uomini. Perciò dobbiamo valutare che tipo di fiducia abbiamo in Dio se abbiamo una dipendenza infantile, e poiché confidare in Dio, avere fiducia, avere fede, sono termini che definiscono un'azione e un'azione ha sempre il suo risultato, consideriamo nella parola di Dio che cosa produce una reale fede in Dio, una giusta fiducia o abbandono in Lui. 1. Salmo 32, 10. Molti sono i dolori dell'empio, ma chi confida nell'Eterno sarà circondato dalla sua benignità. Chi confida in Dio avverte innanzitutto il suo amore, la sua protezione, la sua cura. Nonostante si trovi in difficoltà, si rende conto di essere circondato dalla misericordia di un Dio che si cura di lui, che agisce a suo favore. Tempo fa ebbi un incidente stradale che poteva costarmi la vita. Poiché non stavo tanto bene, fui portato in ospedale. Per tutta una serie di circostanze favorevoli, fui in grado di ritornare a casa quasi subito e, curioso di sapere come andavano le cose, passai sul luogo dell'incidente. Vi erano la polizia, carri attrezzi per rimuovere la mia auto e i due camion che si erano scontrati, molta gente curiosa e i diretti interessati. Mi avvicinai al poliziotto che parlava con l'autista che mi aveva investito e tutto ad un tratto ebbi la sensazione che costoro fossero degli angeli. In mezzo a quella confusione mi sentivo protetto, avvertivo la presenza di persone amiche. E questo anche per l'autista che mi aveva investito. Il poliziotto difese la mia causa con una obiettività rara, per non parlare del camionista che prese le mie parti. Mi sentivo circondato dall'amore di Dio. Questa esperienza mi ha fatto sentire la presenza di Dio, ma la mia vita quotidiana è vissuta nella consapevolezza che Gesù Cristo è con me. Dovessi scegliere una sola promessa in merito a questo tema, scegliere ciò che Pietro scrisse nella sua prima lettera. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché egli vi innalzi al tempo opportuno, gettando su di lui ogni vostra sollecitudine, perché egli ha cura di voi. Quando si sa di essere l'oggetto di attenzione di Dio, quando si è consapevoli che Dio si prende cura di noi, non vi possono essere animi turbati o apprensivi. Anzi, vi è gioia. Per questo Davide termina la sua preghiera dicendo: rallegratevi nell'Eterno. Confidare in Dio significa lasciarsi condizionare dalle sue promesse. 2. Salmo 22, 4. Ma i nostri padri hanno confidato in te e tu li hai liberati. Gridarono a te e furono liberati. Confidarono in te e non furono delusi. Confidare in un uomo può essere controproducente se non pericoloso. Questo non succede con Dio. Gesù Cristo non ha mai deluso nessuno. Sono passati decenni da quando sono diventato per la fede un figlio di Dio e posso testimoniare che se potessi tornare indietro prenderei la mia decisione molto prima di quanto ho fatto. È confuso colui che cammina nella notte nel buio più completo, che cammina per un paese straniero senza guida, che non ha certezze, che non ha risolto i suoi problemi esistenziali, ma non ci ha conosciuto personalmente Cristo. Gesù è la verità, la vita e la via, è la luce, il buon pastore, e per questo chi confida in Lui non è mai confuso. Questo non significa che il credente abbia una vita piena di agi e che si trovi sempre sulla cresta dell'onda, ma comunque vadano le cose, egli sa in chi ha creduto. Confidare in Dio significa non essere turbati né perplessi. 3. Salmo 5, 11. si rallegrino tutti quelli che si rifugiano in te, mandino grida di gioia per sempre, perché tu li proteggi, esultino in te quelli che amano il tuo nome. Leggiamo più volte nella Scrittura che Dio protegge coloro che confidano in Lui. Eppure, come tutti, anche i cristiani soffrono, muoiono negli incidenti, subiscono disgrazie. Come conciliare ciò? Innanzitutto, se siamo obiettivi, riconosciamo di avere moltissime volte evitato pericoli e dolori. Io stesso sono stato coinvolto in 3 incidenti che potevano risultare mortali, e ne sono uscito senza neanche un graffio. Quando ancora ero fidanzato, mentre guidavo l'auto, ad un tratto sono uscito di strada, capovolgendomi, per poi ritrovarmi con l'auto appoggiata sulle 4 ruote, in mezzo ad un prato. La mia fidanzata si fece un graffio, io nulla. Però, non sempre così. Ebbene, anche una disgrazia, una menomazione, sono ragioni per ringraziare colui che ci protegge sempre. Un incidente mortale è una chiamata alla casa paterna, una menomazione è un mezzo per gustare meglio ogni cosa della vita. La protezione alla quale si riferisce la parola di Dio non è sempre indirizzata alla salute fisica, piuttosto a quello che è più importante e indispensabile per noi, cioè al lato spirituale. Essere protetti da un incidente non ci evita la morte che è decretata su tutti gli uomini. Mentre, se si è protetti nell'ambito spirituale, si è protetti ora e anche nel futuro. Confidare in Dio significa valutare gli avvenimenti della vita in modo radicalmente diverso da quando si faceva prima della conversione. 4. Isaia 12, 2. Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia e non avrò paura, perché l'Eterno... Sì, l'Eterno è la mia forza e il mio cantico, ed è stato la mia salvezza. La paura, assieme all'amore e all'odio, è il sentimento più comune della razza umana. Il bambino ha paura del buio, che la mamma muoia. Lo studente ha paura degli esami. Il genitore teme che il figlio diventi un delinquente. Gli sposi hanno paura di essere traditi dal coniuge. Il vecchio teme di essere abbandonato. Si ha paura del presente, del futuro, che avvenga un terremoto, un incidente. Si ha paura della morte, della persecuzione. Si ha paura di non essere amati, di essere abbandonati, di essere traditi. La paura è come l'ombra. Ci segue ovunque. E, per dirla in senso ottimistico, dobbiamo ringraziare Dio se abbiamo soltanto paura perché, stando a quello che dicono gli psicologi, vi sono milioni di persone che vivono in preda ad un sentimento di terrore. La loro vita si può definire veramente un inferno. La paura è una delle morse potenti che frenano il piacere dell'esistenza. Causa la paura ogni attimo della vita, anziché essere un dono, può diventare un inferno. La fiducia in Dio scaccia la paura perché le situazioni della vita non sono più nemiche, ma diventano amiche. E questo non perché ogni situazione sia favorevole, ma perché Dio fa concorrere ogni cosa al bene di chi lo ama. Si deve avere paura solo quando si sa che non si compie la volontà di Dio. Diversamente occorre solo accettare quello che Dio dispone per noi. Confidare in Dio significa essere aperti alle possibilità che Lui ci offre. 5. Proverbi 3, 5-7. Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore e non appoggiarti sul tuo intendimento. Riconoscilo in tutte le tue vie, ed Egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Non ritenerti savio i tuoi occhi, temi l'Eterno e ritirati dal male. Noi dobbiamo vivere basandoci sul nostro discernimento. La parola di Dio è esplicita. L'uomo che si allontana dalla via della prudenza abiterà nell'assemblea dei morti, Proverbi 21 e 16. Chi non usa il discernimento, chi non è prudente, è destinato a cadere in ragionamenti e atti insensati. Prima o poi sarà ricoverato in qualche luogo per dementi. Eppure, Dio ci ordina di non appoggiarsi sul nostro discernimento. Cosa significa? Significa che dopo aver valutato e soppesato ogni cosa, devo lasciare a Dio il diritto di cambiare i miei programmi, fidandomi più della sua opera che del mio discernimento. La ragione è molto semplice. Noi vediamo fino ad un palmo dal naso, Dio conosce il futuro. Quante volte una scelta ci sembrava la più opportuna, in seguito si è rivelata la più dannosa? Inoltre, noi soppesiamo i beni e gli interessi umani. Dio valuta i beni eterni e divini. I figli di Dio devono ricordare del continuo di tenere lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. 2 Corinzi 4:18. Con questa prospettiva le difficoltà saranno più accettabili. Confidare in Dio significa entrare in una situazione nella quale l'atto di esaminare e valutare è terminato e si è di fronte a una ferma convinzione che Dio opererà. 6. Geremia 17, 7. Benedetto l'uomo che confida nell'Eterno e la cui fiducia è l'Eterno. Egli sarà come un albero piantato presso l'acqua, che distende le sue radici lungo il fiume. Non si accorgerà quando viene il caldo e le sue foglie rimarranno verdi, nell'anno di siccità non avrà alcuna preoccupazione e non cesserà di portare frutto. Non sempre le situazioni meteorologiche sono favorevoli. A volte un caldo prolungato causa una siccità molto deleteria per le piante. Anche la nostra esistenza non è sempre priva di difficoltà. Capitano situazioni difficili, ma quello che più snerva è che queste situazioni durano più del previsto. La nostra anima è arida e sente il bisogno delle piogge di benedizioni da parte di Dio. Chi confida in Dio non avverte questa siccità, anzi, nonostante tutte le avversità, il credente continua a portare frutto. Chi confida in Dio non si trova in affanno, non è svigorito, il suo umore è sempre buono, non è nervoso, non causa nervosismo negli altri. Le avversità non sono per lui motivi per scoraggiarsi, ma sfide per glorificare Dio. Quando un credente colpevolizza le circostanze o il prossimo per giustificare la sua pigrizia o la mancanza d'amore, significa che non ha il giusto atteggiamento di fiducia in Dio. Le parole che troviamo nella lettera agli Ebrei sono più che mai opportune. Anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si posto a sedere alla destra del trono di Dio. Ora considerate colui che sopportò una tale opposizione contro di sé da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate e veniate meno. Tenere gli occhi costantemente su Gesù è il giusto modo di confidare in Dio e, come risultato di tale atteggiamento, è la mancanza di scoraggiamento. Confidare in Dio significa non venire meno nell'animo. 7. Isaia 40, 28. Non lo sai forse, non l'hai udito? Il Dio di eternità, l'Eterno, il Creatore dei confini della terra, non si affatica e non si stanca, la sua intelligenza è imperscrutabile. Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore allo spossato. I giovani si affaticano e si stancano. I giovani scelti certamente inciampano e cadono, ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, si innalzano con ali come aquile, corrono senza stancarsi e camminano senza affaticarsi. Chi confida in Dio finisce alla fine per diventare come Lui. L'Apostolo Giovanni scrive nella sua prima lettera: chiunque ha questa speranza in Lui purifichi se stesso, come Egli è puro. 1 Giovanni 3. Dio non si scoraggia, non si stanca né si affatica. Mentre lo scoraggiamento e la stanchezza possono prendere anche i più forti e i meno indiziati, cioè i giovani, chi confida in Dio riprende nuove forze, intravede nuove vedute, nuovi orizzonti. È vero che la vita cristiana è una corsa, ma non ci si blocca perché confidare in Dio non vuol dire fare nulla. Significa compiere gli incarichi che ci sono stati affidati, fiduciosi, che Dio darà loro un senso e una conclusione. È vero che la vita cristiana è piena di ostacoli, ma si trionfa su di essi. Come agli uccelli per volare. Occorrono i venti contrari, così gli ostacoli per il cristiano sono un'occasione per salire sempre più in alto, più vicino a Dio, al punto che nessun desiderio interferisce tra lui e Dio. Per questo egli confida nell'invisibile e attende l'impossibile. Considera la morte come la parte più importante della vita, perché essa segna l'inizio di una nuova esistenza. Confidare in Dio significa realizzare sempre nuove forze. Alla luce di quello che abbiamo valutato, possiamo riassumere cosa significa confidare in Dio. Lasciarsi condizionare dalle sue promesse. Non essere più turbati né perplessi. Cambiare radicalmente la logica finora seguita. Essere aperti alle possibilità che Lui ci dà. Vivere una situazione nella quale l'atto di esaminare e valutare è terminato, per cui si è di fronte a una ferma convinzione che Dio opererà. Vivere con un animo sereno. Realizzare sempre nuove forze. Il mondo non sa cosa significa se noi cristiani non dimostriamo con la nostra vita. Cosa significa concretamente confidare in Dio se non palesiamo i risultati della nostra fiducia in Gesù Cristo? Quale nostro Salvatore di ogni giorno, saremo le persone più illuse e alla fine deluse fra tutte? Avremo fallito lo scopo della nostra vita, mentre il mondo avrà perso l'occasione di vedere Dio all'opera. Abbiamo iniziato le nostre riflessioni prendendo atto che Davide ha confidato in Dio in uno dei momenti critici della sua vita, e termina la sua preghiera dicendo: «I voti fatti a te, o Dio, mi vincolano. Ti renderò lode, perché tu hai liberato l'anima mia dalla morte e hai preservato i miei piedi da caduta, affinché cammini davanti a Dio nella luce dei viventi». Per Davide le promesse fatte a Dio a suo tempo hanno vincolato la sua vita. Egli sapeva che è un laccio per l'uomo fare un voto sconsideratamente, e dopo aver fatto il voto ripensarci. Proverbi 20 e 25. Se siamo figli di Dio, mediante un atto di fede in Cristo, quanto vincolano le nostre promesse di averlo riconosciuto e accettato quale Signore e Salvatore? La nostra volontà, le nostre ambizioni, la nostra intelligenza, la nostra morale, sono sottomessi al volere di Dio? Onoriamo il patto fatto con Gesù Cristo e glorifichiamolo con una vita abbondante, gioiosa e ricca dei frutti che produce il confidare in Dio? Settembre 1984. Radio 2004. Ellero.